come testimonia questo titolo di Libero, l'anti-ebreo Zero Calcare, diserta Luca Comis. A bocce ferme facciamo riflessioni più pacate col parere di Antonia Caruso, editrice e sceneggiatrice di fumetti. Zero Calcare ha deciso con un post di non andare a Lucca Comics a causa appunto del patrocinio. Io penso che sicuramente, cioè non è che si è svegliato un giorno e ha detto no vabbè io basta non vado, ci sarà stato sicuramente un accordo con sua casa editrice, quindi insomma penso sia stata una scelta abbastanza ponderata. Il punto è che comunque subito dopo l'organizzazione di Lucca Comics ha fatto uscire un comunicato che in realtà non dice niente, cioè abbastanza verboso e molto retorico. Secondo me avrebbero dovuto esplicitare diciamo, il loro posizionamento già almeno 10 giorni fa, 2 settimane fa, perché comunque cioè, non avrebbero dovuto aspettare un posizionamento di un autore che, anche se è molto importante, anche perché appunto questo conflitto è del 7 ottobre, quindi c'è stato abbastanza tempo per riuscire a prendere una posizione e anche scrivere qualcosa di meglio rispetto a quello che hanno scritto. E il fatto che comunque al di là di tutto è stato il primo, perché ci sono fate varie defezioni rispetto a Lucca Comics che continuano ad esserci delle prese di posizione eccetera, quindi sta succedendo qualcosa rispetto a questa decisione. Il punto è che essendo la fiera dei fumetti più grossa d'Italia è una cosa difficile, nel senso che so che i piccoli editori hanno fatto degli investimenti per andarci, non sempre è facile, nel senso che ci sono in ballo degli investimenti, quindi è una situazione molto molto complessa che riguarda molto più degli attori diciamo piccoli più che quelli più grossi. Quindi io parlo diciamo più sulle dinamiche industriali del fumetto che non da un punto di vista politico sulla questione palestinese, perché sicuramente ci saranno persone più preparate di me su questa cosa qui. Ma torno un attimo al comunicato che citavi. Nell'ultimo passaggio, nell'ultimo paragrafetto, Lucca Comics dice: abbiamo riflettuto molto sulla possibilità di rinunciare al patrocinio, ma abbiamo ritenuto che sarebbe un atto poco responsabile nei confronti non solo delle istituzioni e delle realtà appartenenti al nostro ecosistema. E poi dice di mettere sempre al centro esclusivamente l'opera intellettuale e creativa, però questo suona un po' come una deresponsabilizzazione. Sì, ovviamente c'è una pretesa di depoliticizzazione e di deresponsabilizzazione totale del mondo dell'intrattenimento, perché poi Lucca non è solo fumetti, è anche legata ai giochi. Non si può pretendere che tutto sia depoliticizzato, come non si può pretendere che sia tutto politicizzato, cioè nel senso che loro parlano di differenze, convivenze, delle differenze eccetera. Il punto è che una delle differenze è che ci può essere un fumetto e un intrattenimento politicizzato e uno no, e quindi se un autore e adesso varie persone hanno deciso di posizionarsi in maniera politica, questa è una differenza. Quindi in realtà se tu dici ci teniamo le differenze e poi quando c'è una differenza te ne allontani, non regge tanto come discorso. Secondo me Lucca è diventata sempre più grande negli anni, e diventando sempre più grande ci sono sempre più interessi economici e quindi soprattutto a livello di finanziamento eccetera. Cioè, per quanto possa non essere oneroso il patrocinio dell'ambasciata di Israele, è comunque una scelta. Magari non c'è un finanziamento diretto, però ci si allinea diciamo a un modo di intendere i rapporti con le istituzioni. Veramente l'arte e la cultura possono essere neutrali? No, non possono essere neutrali, perché cioè, si può decidere che siano neutrali, ma non possono essere, cioè, non è impossibile che tutta l'arte debba essere neutrale, perché comunque l'arte ha di là della questione diciamo formale e di riflessione come risposta ad altri stimoli, è comunque una risposta a quello che l'artista percepisce, che può essere anche qualcosa di politico. Quasi tutta l'arte del Novecento è una risposta agli eventi che stavano succedendo, non esiste un'arte, anche l'arte che consideriamo non politica aveva un posizionamento rispetto a delle cose che succedevano fuori, non è solo una questione estetica e di bellezza, perché poi il problema è che spesso si riduce tutto a una questione di piacere estetico, di bellezza rispetto a dei canoni di piacere visivo o di qualche altro tipo. Quindi non si può mai fare un discorso generale di tutta l'arte deve essere, può essere, perché l'arte è fatta dalle persone e le persone fanno quello che vogliono. Speciale, è metallizzato, lo tengo impostato, non